necessario per noi capirsi bene, anche se non si usa più. Tutto è così artificiale com'è, qui l'eccezione sei tu, qui l'eccezione sei tu. È sottinteso per noi pensare insieme, anche se non si usa più. Tutto è già superficiale com'è, chi scava dentro sei tu, sei tu. Nei pensieri miei io te li leggerei. Stringimi più forte che puoi, possiamo viverci se lo vuoi. Nonostante questi tempi aridi, come vedi siamo ancora qui, con i nostri guai, quelli come noi forse sono i nuovi eroi. Nonostante questi tempi comici, nascondiamo gli occhi lucidi, ma ci pensi mai, forse un giorno poi, gli ultimi romantici saremo solo noi. È fondamentale per noi volersi bene, anche se non si usa più. Tutto è così artificiale com'è, qui l'eccezione sei tu, sei tu. Nei pensieri miei possiamo viverci, lo sai, yeah. Nonostante questi tempi aridi, come vedi siamo ancora qui, con i nostri guai, quelli come noi forse sono i nuovi eroi. Nonostante questi tempi comici, nascondiamo gli occhi lucidi, ma ci pensi mai, forse un giorno poi, gli ultimi romantici saremo solo noi. Gli ultimi romantici